Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Sì, io comincio con un sorriso perché stavamo sorridendo qui in studio, ma guardando ai mercati finanziari c'è ancora poco da ridere perché stiamo vivendo di nuovo settimane di borsa difficili, difficili da seguire, difficili da interpretare. È un mercato nel quale si fa fatica ad intercettare e a cogliere opportunità di investimento. Peraltro qualcuno teme che la discesa in corso, quella di questa estate da dimenticare, anche se recuperata parzialmente questa settimana, possa non considerarsi ancora arrestata. Altri auspicano invece un recupero un po' più consistente, che duri un po' più a lungo di questa settimana invece che sta finendo oggi, o almeno altri auspicano un andamento laterale delle borse internazionali. Comunque c'è anche chi sta riflettendo sull'opportunità di entrare in borsa adesso, ma in che modo farlo, con che prospettive temporali per il proprio investimento. Per la verità ci sarebbe uno stratagemma intelligente per arginare gli effetti dei movimenti negativi di borsa, o quantomeno per attenuare la volatilità che a volte può caratterizzare il mercato azionario. Lo abbiamo visto molto chiaramente nelle ultime settimane. È una strategia utile a cogliere le opportunità delle fasi di ribasso. Parliamo del PAC, il piano di accumulo, ritenuto da alcuni esperti il miglior strumento di pianificazione finanziaria, perché consente l'acquisto di quote di un fondo comune tramite versamenti periodici che permettono di bilanciare le fasi negative e positive del mercato. Questo è il tema di cui si occupa domani la storia di copertina di Plus 24 del Sole 24 Ore, che cerca di capire se iniziando adesso ad investire a rate sul mercato possono esserci prospettive di ritorno interessanti nel medio periodo. Ma è davvero sempre la scelta vincente o remunerativa? È una buona scelta per prendere adesso posizione sul mercato azionario, dati i prezzi raggiunti dalle società e dai livelli raggiunti dai listini internazionali dopo lo scrollone di luglio e agosto? Non ne sono mica tutti tanto convinti. Allora stamattina metteremo a confronto anche idee contrastanti su questo con l'ABC del piano di accumulo. Marco Lo Conte del Sole 24 Ore Plus 24, ciao, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. E bentornato anche, peraltro ormai possiamo definirlo l'ospite di agosto di Salva Danaio, Giancarlo Magri, promotore finanziario di UbiBanca. L'anno scorso forse eravamo un po' più sereni. In una puntata di fine agosto abbiamo cercato di organizzare il portafoglio d'autunno dei nostri risparmiatori. Oggi, come dire, nuotiamo in mari un po' più agitati, però devo dire che Giancarlo ha una faccia bella tranquilla e mi ha confidato che il suo agosto è stato abbastanza sereno. Poi vi racconteremo per quale motivo. Bentornato intanto, salve, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, per le vostre domande sull'argomento di questa mattina, 800 24 00 24, per intervenire in diretta avete anche l'alternativa a scriverci. Di scriverci lo potete fare al 349 238 6666, ma ho anche aperto la nostra posta elettronica, l'indirizzo è salvadanaio@radio24.it. Allora, borse ballerine anche oggi. Francoforte, meno 2. Ieri la borsa tedesca, momentaccio del pomeriggio, è arrivata a perdere il 4% dopo aver vissuto tutta la mattinata invece in positivo. Si era messa a circolare tra le sale operative questa voce secondo la quale sarebbe arrivato un possibile downgrade sui titoli di Stato tedeschi. Chissà che pomeriggio ha vissuto Angela Merkel, che non fa altro che dirne di cotte e di crude su tutti gli altri paesi, e invece insomma ha passato un brutto quarto d'ora anche a cancelliera tedesca ieri. Ma a quanto pare notizie non troppo confortanti sulla borsa tedesca stanno continuando a circolare, perché oggi il listino sta continuando a perdere molto più degli altri, meno 2% in questo momento. Parigi perde lo 0,8, Londra lo 0,6 e Milano snobba tutti, adesso è sulla parità. Il FTSE MIB però guadagnava anche mezzo punto stamattina. Cosa succede? Non si sa. Di fatto adesso le vendite hanno preso a bersagliare la piazza tedesca. Si parla di grandi ordini d'acquisto che stanno arrivando dagli Stati Uniti su un basket molto corposo di titoli, ma insomma non si capisce bene quello che sta accadendo. Di fatto oggi la borsa dice così. Ieri ad animare la seduta anche questa grande iniziativa di Warren Buffett, che ha detto che ha intenzione di investire 5 miliardi di dollari su Bank of America, una delle banche appunto più grandi degli Stati Uniti, in procinto peraltro di lasciare a casa migliaia di persone. in questa grande ristrutturazione ovviamente c'è chi cinicamente ha anche il coraggio, ma soprattutto la disponibilità appunto finanziaria per fare un grande investimento. Oggi attendiamo anche il discorso del numero uno della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, che parlerà da Jackson Hole. Qualcuno non è molto convinto che possa sbilanciarsi su un nuovo piano di aiuti all'economia con un'altra iniziativa di quantitative easing, quindi altre iniziative di acquisto di titoli di Stato americani da parte della Banca Centrale Americana, però insomma l'appuntamento centrale della giornata è quello. Euro su dollaro a 1,44,31, i migliori titoli di Milano, i finanziari. Unicredit guadagna il 2%, Mediolanum più 1,57, Azimut più 1,38, Telecom recupera da un paio di giorni la perdita di tre giorni fa, più 1,18, Fondiaria più 1, Ubibanca più 0,9, Intesa più 0,7, Fiat Industrial più 0,7%, mentre gli altri titoli della galassia Fiat oggi scendono, i titoli SPA meno 2,43, Exor meno 1,55, quindi su questi si prende profitto dopo i rialzi di ieri, prese di profitto anche su Prysmian, meno 2, in pregilo meno 1,72%. Direi che la borsa di oggi la possiamo lasciare da parte, ma vediamo se qualcuno ha intenzione di cominciare adesso ad investire in borsa utilizzando lo strumento del piano di accumulo. Non è detto che per approfittare dell'attuale fase di borsa si debba per forza essere dei paperoni. E se i grandi azionisti di società quotate incrementano grazie ai prezzi scontati le proprie posizioni attraverso il buyback, e dunque riacquistando azioni proprie, anche i meno esperti o i singoli investitori possono darsi da fare. Una delle soluzioni da prendere in considerazione in fasi come l'attuale è il PAC, il piano di accumulo di capitale, accessibile anche a chi non dispone di grandi somme, perché consente di effettuare l'investimento a rate attraverso i fondi comuni. Non a caso, il piano di accumulo viene considerato il miglior strumento di pianificazione finanziaria familiare, in quanto consente l'acquisto di quote di un fondo comune tramite versamenti periodici, successivi e continuativi. La durata degli importi che vanno ad alimentare il piano, fissi o variabili, a cadenza mensile o trimestrale, è stabilita dal sottoscrittore ed è compresa tra i 5 e i 20 anni. Il PAC prevede quindi un investimento di medio-lungo periodo, che offre il vantaggio di acquistare quote del fondo a prezzi diversi, comprandone meno se i prezzi sono alti, comprandone molte se i prezzi sono bassi, riducendo così sia il rischio di entrare quando il valore delle quote del fondo è ai suoi massimi, che l'eccessiva esposizione ai ribassi del mercato. Distratti come al solito perché Marco Lo Conte ci racconta le sue vicende personali, non è vero naturalmente, però devo giustificare in qualche maniera il motivo per cui non entro subito in onda quando scatta la musica che ci richiama. Marco, che cos'è un indice di galleggiamento? Vabbè, allora abbiamo provato a mettere insieme diversi elementi per cercare di capire una cosa. Allora, premessa, prima si diceva, sottolineavi nella tua cronaca, c'è chi considera questo come un momento utile, importante, interessante per investire sui mercati, perché si dice a livelli così bassi può essere molto premiante comprare oggi. E in effetti questa è una mossa che può rivelarsi azzeccata a patto di sapere che si può perdere ancora e che non tutte le scelte siano efficienti. A patto di aspettare un periodo di tempo congruo, almeno un po' di 5 anni, vogliamo dire 5 anni, lo buttiamo lì, è chiaro che è una dimensione che... Sì, guardando indietro questa è un'ottica temporale che non ci convince molto, ma poi faremo anche questo ragionamento. Esatto. Guardiamo avanti adesso. A patto di trovare i titoli giusti. Allora, come trovare i titoli giusti? Gli indicatori e i multipli di mercato sono tanti, diversi, non tutti, nessuno unicamente riesce a, come dire, a dare un monitoraggio completo del valore di un titolo. Il price earning, il prezzo utili, ormai ha perso molto dell'appeal che è stato utilizzato nel passato. L'enterprise value, l'enterprise book value, anche quello forse più congruo, però non tutto ci dice. Allora abbiamo provato a mettere insieme il rapporto tra la capitalizzazione e il fatturato, che è un indicatore che sottolinea la capacità di un'azienda di essere presente attivamente sul mercato anche dal punto di vista economico, insomma di fare cash flow, di fare di vendere, insomma di incassare del denaro, con l'andamento del mercato negli ultimi 12 mesi, che è stato un andamento tremendo, soprattutto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Questo va a dire, se una società è stata premiata dal mercato per i suoi fondamentali ed ha un buon cash flow, ha una buona una buona performance economica rispetto alla sua capitalizzazione di borsa, allora significa che è una società che più o meno sta galleggiando bene, è in salute, quantomeno se la cava. È un po' sottovalutata magari, quindi può avere margini di crescita, non può essere. Non del tutto, ma insomma diciamo che è una società che raccoglie il favore degli analisti o quantomeno del mercato. Alcuni analisti, però alcune società per esempio l'hanno già considerate overweighted, cioè già da sottopesate, cioè sono già troppo valutate, sovrappesate nei portafogli. Per esempio la Tesoro, che non è una società italiana ma statunitense, si occupa di raffinerie di petrolio, è una società su cui Barclays ha già detto alleggeriamo perché è già in eccesso, però ce ne sono tante altre di altri settori, dalla chimica alla farmaceutica per esempio, o al retail come la portoghese Geronimo Martins per esempio, che francamente non conoscevo molto. Perché la Tesoro sì? La Tesoro sì, l'avevo vista qualche volta, però insomma anche mi aveva incuriosito il nome, però Geronimo Martins francamente no. Insomma hanno ricevuto dal mercato, è una fotografia del presente, non è molto predittiva, ma insomma è un elemento che ci dice qualcosa, che ci può dire qualcosa del futuro. Ecco, scegliere i titoli giusti è fondamentale, perché non tutti sopravviveranno a questa e alle prossime crisi, e dunque può essere opportuno. Per esempio, in queste analisi non abbiamo preso in considerazione, ma perché non, i numeri non ci dicono nulla sui titoli finanziari. Perché sono stati molto penalizzati. Qualche titolo italiano che galleggia c'è? Beh sì, sicuramente, a parte Exor, che è quella che ha un indice migliore, ma è una finanziaria, per cui ha un cash flow derivato dalle società in cui investe. La seconda è inevitabilmente Fiat, ma poi c'è Pirelli, Saipem, Lottomatica, Luxottica, Enel, Parmalat, Autogrill, insomma società che Eni, Buzzi Unicem, A2A e Generali, sono le società che hanno mostrato una maggior tenuta in questo momento di crisi, che riguarda in particolare gli istituti di credito oltre che non mi ricordo su quale giornale leggevo qualche giorno fa, forse sul Corriere della Sera, che Generali quota a malapena il valore dei suoi immobili in questo momento, per cui già forse questa indicazione basta per capire se può essere o meno un'occasione di investimento in una fase come questa. Mi chiedevo, Marco, se questa inchiesta sull'indice di galleggiamento che avete elaborato voi, che può apparire folcloristico ma in realtà appunto è l'apice di un iceberg di approfondimento molto interessante, ha qualcosa a che fare invece con la storia di copertina legata che è sui piani di accumulo? Ma sì, noi abbiamo, allora diciamo, è nata l'idea di provare ad astrarci rispetto alle notizie di cronaca che tu hai perfettamente registrato poco fa, perché è vero che gli indici perdono, calano, ma è anche vero che gli italiani sono esposti in misura estremamente ridotta al mercato azionario, e dunque c'è un eccesso di informazione ansiogena, che già di per sé insomma abbastanza ansiogena, e rispetto poi al reale valore dei portafogli degli italiani. Allora abbiamo detto, prendiamoci una pausa rispetto a questa tutta questa ansietà e cerchiamo di capire quali scelte possono essere efficienti. Allora, prendiamoci un orizzonte temporale di più lungo termine, 5 anni, diciamo almeno 5 anni. Dunque, seminare a 5 anni che tipo di raccolto può produrre. E abbiamo provato a vedere nell'ultima fase, negli ultimi 10 anni, periodi di 5 anni, che tipo di risultato ha prodotto un investimento PIC, ossia in un'unica soluzione, l'investimento PAC, ossia in una soluzione a rate. Rateizzata. E abbiamo visto che non è sempre il momento giusto di investire, né in un modo né nell'altro. Infatti, avete fatto per caso 5 anni fa una storia di copertina simile? Non ricordo. Ma abbiamo preso in esame, per esempio, il periodo marzo 2000, marzo 2005, marzo 2003, minimo di mercato, sì. Marzo 2008. Non era al massimo, però insomma era andata bene fino a poco prima. Agosto 2003, agosto 2008 già cambia tutto. Così come i due confronti, marzo 2006, marzo 2011 e aprile, agosto 2006, agosto 2011. Perché i casi estremi, le code, i tail, come abbiamo raccontato tante volte, cambiano statisticamente i portafogli in maniera estremamente rilevante. È evidente, chi avesse investito nel marzo del 2003 in un'unica soluzione avrebbe guadagnato di più rispetto a chi avesse scelto invece l'investimento PAC. Cosa del tutto diversa invece chi avesse investito nel marzo 2006 rispetto al marzo del 2011. Qui il PAC ha protetto il valore dei portafogli in misura nettamente superiore. E certo, comunque se si guarda il risultato è un discorso che si può fare di un certo tipo, il tema è anche l'ingresso nel mercato, uno sceglie il PAC perché proprio può farlo con cifre più modeste entrando certo. gradualmente. Giancarlo Magri, infatti, allora comincio subito con lei, mi raccontava prima, andiamo un po' a verificare qual è stato il tenore delle sue giornate di agosto, telefono tempestato di chiamate da parte dei suoi clienti oppure li aveva già ben consigliati prima? E quindi non si sono preoccupati più di tanto delle oscillazioni del mercato che abbiamo visto in queste ultime settimane, che probabilmente non saranno finite. E ci racconti un po', poi andiamo alle sue idee sul piano di accumulo. Allora, credo che la cosa fondamentale sia quella di, nei confronti dell'investitore, risparmiatore, costruire un portafoglio adeguato alla sua propensione al rischio. Uh-huh. E il nostro lavoro non è tanto quello di vendere un prodotto, il miglior prodotto al momento, eccetera, ma è quello di fare un lavoro sartoriale, costruire un portafoglio adeguato alla tolleranza del rischio del cliente. Quindi diciamo che nel mese d'agosto sono stato relativamente tranquillo, diciamo io telefonate non ricevute poco, sono un po' più preoccupato per capire cosa sta succedendo, dove stiamo andando eccetera, perché comunque siamo in una situazione molto aleatoria con volatilità che è aumentata in modo esponenziale negli ultimi 2 mesi. Però coi clienti, se uno costruisce un portafoglio condividendo il profilo, rimangono abbastanza, fra parentesi, tranquilli. E spiegandogli bene che magari quei momenti come quelli che abbiamo visto nel 2008 non sono poi così rari e magari si possono ripetere, allora magari quando arrivano li può subire o comunque guardare con un po' di tranquillità. Diciamo che quello che sta succedendo adesso, prima probabilmente da un crollo all'altro passavano 6-7 anni. Oggi questa tempistica si sta riducendo. Lo stiamo vedendo adesso che l'ultimo crollo è stato nel 2008, il 2011 sono passati solo 3 anni, ci troviamo in un'altra situazione. Di nuovo ci siamo riportati su quei livelli, almeno per quello che riguarda appunto alcuni indici. Questa è la sua situazione, quella che ha vissuto ad agosto, il PAC. Adesso devo già andare a fare la prima pausa, ma le faccio una domanda a bruciapelo, poi la approfondiremo nella seconda parte della trasmissione. Dati i livelli raggiunti di prezzo di molte società quotate, dati i livelli raggiunti da alcuni indici, è il momento, secondo lei, lo suggerirà ad alcuni suoi clienti, lo sta già facendo, di entrare sul mercato con un piano di accumulo, quindi gradualmente? Cioè, il piano d'accumulo è un strumento di costruzione di un portafoglio, quindi di costruzione di un patrimonio, quindi non è mai il momento giusto, ma se uno vuole iniziare oggi a costruire un patrimonio per le esigenze future, oggi è il momento adatto. Però, quindi dipende sempre dall'obiettivo dell'investimento. Sì. E poi il PAC deve essere costruito sulla tolleranza al rischio del cliente. Benissimo, queste sono già le prime ricette che ci ha fornito Giancarlo Magri, promotore finanziario UbiBanca. Poi continueremo la nostra chiacchierata anche con Marco Loconte ed è pronto anche un ascoltatore, Roberto da Milano, che è interessato al funzionamento del piano di accumulo sugli ETF. E insomma, allora, tante già le questioni che ci state ponendo, le affronteremo tutte tra pochissimo. Eccoci qua, oggi torniamo a parlare di mercato e soprattutto cerchiamo di analizzare qual è la migliore strategia per poter investire, sa che cosa, che parola mi sono inventata in questo momento, investire anche in fasi difficili come quella attuale. Allora c'è chi è l'assoluto assertore del PAC, del piano di accumulo, quindi cominciare anche ad entrare a rate sul mercato può essere una strategia vincente, lo è soprattutto nel lungo periodo, però ma abbiamo appreso in maniera molto chiara che la crisi che stiamo affrontando dal 2007 ha praticamente cancellato la logica del lungo periodo, perché nei minimi del 2009 il mercato si era riportato, il mercato azionario, sui livelli del 97, quindi erano stati cancellati 12 anni di borsa, e visto che adesso ci ritroviamo sui livelli del 2009 abbiamo aggiunto un paio d'anni, Marco Loconte. Ma sì, cancellato, sì, se uno avesse investito 10 anni fa oggi non avrebbe dei soldi in più. Ma se uno avesse investito periodicamente, quei soldi in più li avrebbe, nel senso che l'investimento periodico consente di mediare le perdite, di acquistare valori quota di fondi comuni o di ETF, per esempio, a livelli differenti, a valori differenti. Magari può anche decidere, quando vede che le borse scendono molto, dire vabbè, aumento la quota di acquisto perché così compro più quote. Più quote dei fondi. E dunque, alla fine di un decennio, anche se l'indice time weighted, cioè preso a seconda del tempo, è rimasto invariato, uno può trovare invece dei soldi in più in portafoglio. È vero, le notizie sono un po' ansiose, però invece i soldi veri, money weighted, cioè guardando i soldi veri, pesando i soldi, Beh, i risultati possono essere diversi ed è questo il tipo di informazione che noi su Plus24 cerchiamo di approfondire, cioè appunto la finanza personale, non la cronaca, ma infatti, l'utilizzo per le scelte. Anche perché ti dico che Stefano da Verona ci scrive che sono i giornalisti e le notizie che mettono ansia ai nostri ascoltatori e lettori. Speriamo di no, noi cerchiamo qualche volta di essere anche abbastanza edulcorati nei toni. Però ci vuole la cronaca e ci vuole anche l'approfondimento. L'approfondimento, infatti, anche perché... anche se stiamo pagando caro la crisi finanziaria degli ultimi anni con tante perdite di posti di lavoro, però insomma siamo ancora qua e speriamo di svangarla, ci vorrà qualche anno ancora. Giancarlo Magri, adesso le faccio fare il promotore finanziario, ammettendo che in questo momento i suoi tranquilli clienti siano però attirati dall'idea di prendere posizione sul mercato azionario o anche obbligazionario, perché noi abbiamo l'idea fissa che il PAC si possa costruire solamente sulle azioni, con la borsa, e in che maniera costruirebbe il vestito da sarto come ci ha indicato prima, perché questo è il suo atteggiamento nei confronti appunto dei suoi clienti. Quindi a quale cliente sarebbe particolarmente adattabile il vestito PAC? Allora, il PAC secondo me è adattabile a tutti i clienti, perché tutti hanno la capacità di accantonare una cifra mensile, cioè tutti o quasi tutti, e questa cifra permette di costruire un patrimonio che può essere l'obiettivo, l'acquisto della seconda casa, l'acquisto della casa dei figli o altri obiettivi. Quindi fondamentale è capire col cliente qual è l'intenzione, per quale motivo sta accantonando questo capitale. Questo capitale che accantona come influisce sul patrimonio che è già in essere? Perché se io faccio un PAC tutto azionario e mi trovo con un cliente che dopo 2 anni ha un'esposizione al mercato azionario elevata, dovrò ridurre probabilmente l'esposizione anche del PAC e ridurre il profilo di rischio complessivo del portafoglio. Inoltre, se un cliente mi dice io voglio costruirmi il capitale per comprare una casa, la seconda casa fra 10 anni, il PAC avrà bisogno di manutenzione, cioè non devo prendere questi soldi, dimenticarli compro i famosi 500 euro, 200 euro al mese. Quindi insomma la prima idea molto chiara che il possibile sottoscrittore del PAC deve avere è che deve mantenere le sue posizioni per un tot di tempo, quantomeno non dover avere necessità di smobilizzare quella cifra per un lungo periodo, altrimenti lo deve chiarire sin dall'inizio e in quel caso il PAC avrà bisogno di manutenzione, come dice lei. Secondo me il PAC ha sempre bisogno di manutenzione, perché comunque nell'ambito del portafoglio l'accantonamento di una certa quota va a modificare il profilo di rischio del cliente. Quindi se il PAC, che è interamente azionario, va a portare il cliente su un profilo di rischio non adeguato, questo si troverà a gestire delle perdite non previste. Quindi secondo me il PAC è giusto, va visto come costruzione del patrimonio, ma deve essere anche visto in un'ottica di profilo di rischio complessivo. Allora, sentirei Roberto da Milano, poi andiamo anche al funzionamento del PAC, facciamo proprio un po' l'ABC su come funziona. Non è uno strumento di investimento, è una modalità per investire sul mercato, per cui anche questo bisogna che si capisca molto bene. Non è che uno va in banca e gli dice voglio questo strumento di investimento che si chiama PAC. È una modalità, sì, magari l'impiegato glielo dice anche, sì, noi ce l'abbiamo, il PAC alla fine è uno straordinario strumento di fidelizzazione anche del cliente. I pacchetti di PAC che vengono costruiti però spesso presentano dei costi alti e spalmati soprattutto sulle prime rate, in modo da vincolare il cliente a completare il piano. Un po' come i caricamenti delle polizze vita. Sì, quelle di una volta ancora, perché se i costi fossero equamente spalmati su tutte le rate, per esempio 5 anni sono tante mensilmente, per cui alla fine si potrebbe uscire in qualsiasi momento vanificando l'impostazione, il piano, ma soprattutto perdendo il cliente dal punto di vista della banca. Allora spesso accade, diciamo spesso, che tutti i costi vengono caricati nelle prime rate. Colpa di Magri, perché poi queste politiche devono remunerare i promotori finanziari, no? Le reti di distribuzione, Magri, anche accade. Un po' colpa vostra se tutti i caricamenti sono all'inizio. Beh, credo non tutti i PAC hanno i caricamenti all'inizio. Fondamentale è la chiarezza nei confronti del cliente e il potere contrattuale del cliente nei confronti del promotore. Io, se voglio mantenere il cliente per i prossimi 10 anni, non lo devo spremere. Fa un pochino di sconto sulla commissione, magari rinuncia lei a qualche Si può rinunciare a dei guadagni per comunque tenere il cliente e crescere con lui nei prossimi 10 anni. E allora magari fosse sempre così facile, Magri, magari il mondo fosse popolato da promotori finanziari come lei, però non è detto, insomma, no, ci sono tante ottime professionalità sul mercato, come per tutte le categorie, giornalisti compresi, perché poi adesso non vorrei, come al solito, scatenarmi addosso tutte le perplessità e considerazioni negative dei nostri ascoltatori. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Ci dica. Come mi ha anticipato, la mia domanda era un parere dei vostri ospiti su un piano di accumulo con ETF. E se volevo chiedere questo, se l'ETF rispecchia sempre, va bene, nel caso dell'indice MIB, FTSE MIB, l'indice reale. Sottostante. Grazie. Allora, non è la puntata sugli ETF ma sui piani di accumulo, però se Marco Lo Conte volesse rispondere ad entrambe le domande ci farebbe la cortesia, perché effettivamente non è sempre detto che l'ETF segua in maniera pedissequa l'indice sottostante. Lo abbiamo scoperto appunto pur vendendo questo prodotto come una replica identica degli indici sottostanti, invece non replicano identicamente un bel niente. Alcuni emittenti di ETF, alcune società che hanno creato e collocato ETF in proporzioni crescenti negli ultimi anni, hanno creato, diciamo così, una sottocategoria di ETF che replicano in parte gli indici, per un'altra parte replicano delle porzioni degli indici con delle opzioni in maniera sintetica. Gli indici sintetici, infatti. Gli ETF sintetici replicano in maniera non perfetta l'indice, ma soltanto parzialmente. Perché? Perché conviene, perché in questo modo si abbattono i costi e si ottiene un modo per replicare meglio, a costi più contenuti per l'emittente, una porzione di indice, sostanzialmente quei titoli più sottili, che sarebbe laborioso e costoso andare a comprare con quantitativi ridotti. Questo ha dato alla stura anche la possibilità di alcuni emittenti di utilizzare lo stock lending, cioè di cedere in prestito i titoli comprati, parte del patrimonio degli ETF, per altre operazioni ad altri soggetti. Cosa succede? Succede che in questa operatività il cliente è tutelato finché però non si creano dei problemi che possono in qualche modo impattare. Gli ETF non abbiamo mai detto, né su Plus né a Salvadanaio, che sono la manna del cielo per investire. Soprattutto in maniera... da quando sono diventati tanto complicati, perché quando sono nati 7 o 8 anni fa, una delle prime trasmissioni che ho fatto a Salvadanaio 8 anni fa, quando ho preso la tua, era proprio, stavano nascendo in quel periodo, mi ricordo, ed erano semplicissimi perché replicavano identicamente gli indici sottostanti, dopodiché sono fioriti sul mercato invece repliche di ogni genere. Però dobbiamo dire che gli ETF costano molto meno dei fondi comuni, hanno l'obiettivo di replicare quell'indice. Bisogna controllare bene, bisogna guardarli, come in tutti gli strumenti finanziari, che la promessa contenuta nell'involucro sia mantenuta in sostanza in tutti i prospetti informativi. Per esempio, se sono fisici o sintetici, la differenza è esplicitata nel prospetto informativo. Il prospetto deve essere esplicitata. La tipologia di replica dell'indice sottostante. Certo. Il PAC con l'ETF. Perché no? Assolutamente è un'ottima idea, perché abbatte i costi del fondo comune, dei fondi, i costi di gestione. Il PAC con l'ETF si fa da sé. Quindi però può essere un po' più efficiente. Giancarlo Magri, è d'accordo? Cioè, ci sta, nel senso che comunque se io voglio risparmiare al massimo i costi, posso fare il PAC con l'ETF, oppure l'altra scelta è quella di scegliere all'interno di una gamma di prodotti ampia il miglior gestore con un fondo con il miglior rating. Oggi ci sono società che danno rating ai fondi, eccetera, e quindi sperare che il gestore riesca a fare meglio del mercato. Morningstar, possiamo ricordare, magari per qualcuno che volesse le pagelle dei fondi di investimento, l'IPER, anche tante altre società, appunto. Cioè. Antonio da Milano. Allora, Antonio aveva fatto un PAC nel 2003 e anche lì eravamo reduci da un periodo piuttosto nefasto, perché era crollata la bolla internet e probabilmente qualche buona occasione di investimento in quel periodo si trovava. È andata bene per qualche anno. Antonio, poi cos'è successo? Allora, io praticamente versavo 500 euro al mese e ho versato per 6 anni, quindi per un totale di 36.000 euro. Poi praticamente nel 2009 ho sospeso il PAC, perché naturalmente il PAC... Si è spaventato, insomma, 2009 anno nero. No, ma non ho praticamente portato i soldi in casa, li ho lasciati in deposito. Allora praticamente il PAC era arrivato intorno a 26-27 mila euro dai 36 versati e oggi sono intorno ai 33 mila euro. Ecco, quindi praticamente però il PAC, ce n'è nonostante a distanza, mi lascia delle perplessità su quello che possa, come dice Marco Lo Conte. Quant'era la durata originaria del suo piano, Antonio? Quanto avrebbe... anni. E ne ha fatti 6, beh certo. Ne ho fatti 6 e quindi praticamente però oggi c'ho meno di quanto ho versato. E quando è che è iniziato? Nel 2003. Allora, 2003, beh, lei ha preso tutta questo, la... Mi perdoni? Sì. Sì, e questa praticamente è una domanda. L'altra domanda è la stessa cosa che mi è successa con una GPF che all'epoca, nel 99, quando eravamo ancora in dire, praticamente tanto si parlava su Mondo, su altre Corriere Soldi o altre cose, si parlava praticamente di questa famosa GPF. Io ho versato 100 milioni delle vecchie lire in GPF. Mm-hmm. Ho versato nel 99, per i primi 2 anni è andata bene, tenga presente praticamente che la gestione è affidata a loro, quindi praticamente il 70% è azionario, il 30% obbligazionario, è libera praticamente di gestione loro. Io oggi praticamente a distanza di 12 anni praticamente mi trovo 1200 euro in più rispetto a quello che è. Quindi praticamente il medio termine di cui tanto si parla, il medio lungo termine, se non è medio termine è questo nel caso. Sì, sì, sì, ma l'abbiamo detto, Antonio. Altre cose, quindi io non so, quindi praticamente a questo punto dico cosa faccio, smobilizzo sia l'uno che l'altro e cerco un'altra strada, questo è il motivo della mia telefonata. Antonio, la ringrazio. Allora, adesso devo andare in pausa, la prima riflessione che mi viene è la sospesa nel 2009, nel momento più drammatico della crisi recente, chissà se non avesse aspettato un altro anno e mezzo prima di smontare il suo PAC. Bisogna capire in che mese del 2009. Oltretutto, ma comunque fare 6 anni con un'ottica di investimento iniziale che era di 15, forse già lì è un errore, ma magari adesso si ritroverebbe se avesse mantenuto la sua posizione con un valore ancora inferiore ai 33.000 euro. Non è detto, vabbè, insomma ci sono tanti temi su cui ragionare tra pochissimo. Allora, Antonio da Milano ci ha raccontato la sua situazione. Nel 2003 ha avviato un PAC, era un momento molto delicato di mercato perché aveva subito la sbornia dello scoppio della bolla internet e quindi si era già su livelli minimi, poi il mercato ha ricominciato a crescere per rientrare in una crisi dirompente nel 2007 che l'ha portata, meno la borsa, sui minimi nel 2009. E Antonio che cosa ha fatto? Aveva questo piano di accumulo avviato nel 2003, nel 2009 naturalmente il momentaccio ha deciso di uscire, però il suo obiettivo iniziale di investimento era di 15 anni. Gianluca, è da stamattina che lo chiamo Gianluca, Giancarlo Magri, il suo consulente ha fatto un cattivo lavoro secondo lei? Beh, io non so se qua è stato il consulente a dirgli di bloccare il piano, è stato il risparmiatore a decidere di bloccare il piano. Cioè bisogna capire innanzitutto su che tipo di prodotto era, se era un fondo bilanciato, se era un fondo azionario. Ammettiamo che si trattasse di un fondo azionario, anche se non credo, perché avendo mantenuto da 36.000 a 33.000 euro magari... Credo che sia un fondo bilanciato, ecco. Almeno così a prima vista. Cioè se avesse continuato, cioè bisogna capire quando nel 2009 l'ha bloccato, diciamo se avesse continuato a investire avrebbe comunque preso il periodo dal 2010, seconda metà del 2009, 2010 di recuperi vistosi. E poi effettivamente nell'ultimo periodo ci sarebbe stato questo calo dell'ultimo mese e mezzo, eccetera. Bisogna vedere a che punto, cioè su che profilo di rischio era e che tipo di fondo. Però a giudicare insomma dal tenore della chiacchierata non abbiamo di fronte una persona completamente sprovveduta rispetto al mercato, bisogna resistere anche in fasi difficili. Secondo me nelle fasi difficili bisogna mantenere la coerenza delle scelte di investimento. Che tipo di manutenzione avrebbe fatto lei ad un PAC investito su un fondo bilanciato? Nel caso in cui un cliente come Antonio, che ha disinvestito nel 2009, fosse venuto da lei in quel momento e le avesse chiesto il disinvestimento? Allora, bisogna capire innanzitutto se questi soldi erano necessari, servivano per altri tipi di... per altre necessità. Quindi se non aveva una necessità immediata, il consiglio era quello di mantenere la posizione e comunque continuare con il piano di investimento. Logicamente bisogna vedere questi 30-27 mila euro, se non sbaglio nel 2009, quanto incideva sul patrimonio complessivo del cliente, perché se questi 27 mila euro rappresentavano il totale del patrimonio, mi trovo di fronte a una turbolenza di mercato elevata, non sono più tranquillo, probabilmente un'operazione potrebbe essere stata quella di ridurre il rischio sul capitale maturato e continuare col PAC con i versamenti successivi. Cioè lì è un discorso che va affrontato, diciamo, di fronte al cliente, infatti, con il cliente guardarlo negli occhi. So che lei farebbe una radiografia molto attenta al nostro ascoltatore, ma secondo lei così è un errore mantenerlo fermo adesso o riprenderebbe i versamenti? Bisogna parlare con lei. Bisogna parlare col cliente. Cioè, per quale motivo ha deciso di fare un piano accumulo a 15 anni? Quali obiettivi aveva? se è cambiata la situazione reddituale, perché negli ultimi 2 anni abbiamo avuto anche, ci troviamo di fronte a famiglie che avevano redditi che sono poi calati, quindi la capacità di risparmio è diminuita, è ridotta. Bisogna capire su questo piano d'accumulo che ha fatto, quali sono stati i costi, se ha avuto dei costi iniziali, dei caricamenti iniziali, eccetera. Sì, perché lì potrebbe anche essere questo, che questi 3.000 euro, anche se sono tanti rispetto ovviamente all'intero capitale versato. È la capacità contrattuale, bisogna guardare in faccia il proprio promotore e dire, ascolta, fammi uno sconto, a me capita. Cioè, quindi, cioè, secondo me uno deve essere disposto anche a rinunciare dei margini immediati per poter instaurare un rapporto duraturo nel tempo col cliente. Sulla gestione patrimoniale invece, perché lei storceva un po' il naso quando ha citato questa tipologia di consulenza, chiamiamola così, perché anche lì la gestione patrimoniale non è un prodotto, cioè, stiamo venduto parlando dalla di un prodotto, banca, comunque, è un pacchetto di, allora, consulenza che la banca vende. Cioè, qua è un prodotto, allora parliamo del 99, quando sì, le gestioni andavano di gran moda. Non si guardavano i vari costi, non si sapeva che tipo di strumenti erano in portafoglio, buona parte di queste gestioni erano monomarca. Anche se poi il termine moda associato alla finanza non dovremmo neanche noi mai commettere questo errore. Comunque erano molto ben distribuiti. Insomma, però purtroppo è un termine che ritorna frequentemente e sono alla fine i danni maggiori le fanno questi prodotti di moda. E quindi la gestione patrimoniale, 50.000 euro, 100 milioni, 50.000 euro attuali, così tanto per dare un'indicazione secca. Adesso che cosa ha detto di ritrovarsi? Con 1.500 euro di utile, o 1.700. Sì, infatti. Cioè, diciamo che dal 99 ad oggi, quindi sono passati 12 anni. Che ritorno ragionevole, sempre ricordando che naturalmente bisogna conoscere l'obiettivo dell'investimento della persona in questione, ma che obiettivo ragionevole di rendimento avrebbe dovuto attendersi da una GPF costruita nel 99? Allora, questa GPF, se non ho capito, erano 70 azioni e 30 obbligazioni. Bisogna capire quali erano i costi della gestione, perché qua è il rischio che i costi di questa gestione abbiano fatto guadagnare alla banca il 20-30% di quanto è investito, e il rendimento è stato mangiato da tutti i costi. Cioè, bisogna fare un'analisi su tutto quello che è stato il modus operandi del 99 ad oggi, fino a questo momento. E insomma, però il tema anche posto, per la verità, da Antonio, se non mi ricordo male, è il tema del lungo periodo. Marco Loconte, sì. No, ci racconti anche quella straordinaria analogia che avete ritrovato nella fase di mercato recente con quello che è successo negli anni 70, perché il grafico veramente, purtroppo non possiamo mostrarlo ai nostri ascoltatori, ma possono vederlo domani su Plus24, è incredibile. Sì, poi diciamo del lungo termine, però effettivamente questa analogia è molto interessante, perché sono quasi sovrapponibili gli indici attuali, cioè dal 2008 ad oggi, e quanto accaduto tra il 73 e il 77 circa. Poi i lettori vedranno che cosa è accaduto dopo il 77, potranno in qualche modo vaticinare quanto potrà accadere in futuro. È una battuta, in realtà è difficile trarre delle grandi... Ma magari quell'andamento laterale si mantenesse, guarda, saremmo tutti un po' più tranquilli per qualche mese. Il problema è che in sostanza siamo in una fase, sono molte le analogie, anche dal punto di vista macroeconomico. A metà anni 70 un grosso shock petrolifero, in qualche modo analogo allo shock del credito che c'è stato in questi ultimi anni. È un'altra forma di petrolio, d'altronde. Sostanzialmente sì. La liquidità delle banche centrali. Oro ai massimi per l'epoca, così come oggi. Una situazione di molto non troppo lontana dalla recessione per molte economie sviluppate, e la ricerca di nuovi porti e di nuove soluzioni da trovare per il mondo industriale occidentale. È andata a finire che ci furono molti anni di andamenti laterali, e quindi ancora un periodo difficile da come dire, per le scommesse. Per il PAC invece è un periodo interessante, perché offriva l'opportunità di entrare a diversi livelli, come detto. Tu dicevi, mi chiedevi il lungo periodo. Allora, perché in realtà, ecco, era questo un po' l'oggetto della contestazione di Antonio. Io non ci credo più, perché dovunque mi metto, comunque il lungo periodo non ha più una regola, non è più la regola appunto aurea dell'investimento. Orco cane, a pagina 12 però su Plus abbiamo un'analisi un po' più amplificata sul lungo periodo, ossia, poi gli ascoltatori lo andranno a prendere domani, abbiamo riproposto una serie di analisi su quanto tempo ci vuole perché le azioni battano le obbligazioni, periodi possono essere anche di 2 secoli. Ora, qual è il lungo periodo? Il lungo periodo è parametrato non alle storie delle borse, ma alla storia personale dell'investitore, quanto tempo può essere investito un risparmiatore nei mercati. Prendiamo una dimensione standard, come facciamo? Ognuno al suo, anche perché per esempio l'unica dimensione standard che possiamo prendere è quella della vita dell'attività lavorativa, se consideriamo per esempio un fondo pensione, ossia l'adesione ad un fondo pensione. In Italia purtroppo si aderisce a 40 anni, si va in pensione a 60-65, per cui siamo a 20-25 anni, anche questo è un lungo periodo, qualcuno potrebbe storcere il naso. Evidentemente anche la crisi del 2008, che ha questo secondo minimo che sta toccando ora in agosto, ha messo un po' in discussione il lungo periodo, ma non l'ha demolito del tutto. Anche perché, che cosa è accaduto nel 2009? È stato evocato poco fa dall'ascoltatore. Nel 2009 pochi se ne saranno accorti, ma dopo mesi tremendi, con notizie molto ansiose sui mercati, nel 2009, tra marzo e novembre, la borsa è ripartita una risalita enorme. Oltre il 70%. Non ha fatto molta notizia questa performance, ma è stata straordinaria. Chi l'ha colta ha portato a casa dei risultati eccellenti. E infatti, Marco, ci fermiamo perché ci mancano 2 minuti prima di chiudere e abbiamo un po'... la nostra ascoltatrice si è stancata, ci ha abbandonato, però abbiamo Massimiliano d'Alessandria che forse aveva un'osservazione assolutamente pertinente con il discorso che facevamo adesso. Massimiliano. Sì, buongiorno. Volevo raccontare la mia esperienza brevemente. In merito ai PAC, io avevo un PAC che avevo aperto nel 2002, Azionario Italia, e a marzo, mi pare, del 2007 avevo versato in controvalore 9.000 euro e mi sono ritrovato con 15.000 euro. Mm-hmm. Allora ho deciso di togliere tutti i soldi senza chiudere il piano d'accumulo, ma prelevare tutti i soldi, metterli sul conto corrente e continuare con i soliti versamenti che facevo trimestralmente. Nel 2008 stavo perdendo dei soldi, ho incrementato invece che versare 450 euro a trimestre, versavo 1000 euro o 1500 e adesso sto comunque ancora guadagnando. Certo, ecco. Dipende quindi dal momento in cui si colgono queste opportunità, conoscere molto bene anche la dinamica, il funzionamento, perché lui dice: io ho continuato i versamenti, ho smobilitato però la parte con la che era notevolmente inattivo. L'ultima considerazione poi ci salutiamo, Antonella da Torino, deve essere telegrafica perché sto salutando, grazie. Sì, buongiorno, senta, io volevo soltanto chiedere un'informazione se ci sono delle regole. Io ho questa assicurazione che è azionaria, però non ho mai da parte loro un consulente a cui io possa chiamare, ci sono soltanto dei call center a cui io chiamo tutte le volte, ma non sanno assolutamente niente del portafoglio, del mio investimento. Ma è un piano di accumulo, lei sta facendo... È un piano di accumulo, ecco. Esatto, allora Antonella, guardi, devo salutare adesso, magari se ci può scrivere a salvadanaio@radio24.it, se ci dà anche magari gli estremi di questo prodotto, cercheremo di così intercettare la società e chiederle perché hanno questo atteggiamento nei confronti della clientela che fa inorridire Giancarlo Magri a vederlo, che non riceve telefonate solo perché li gestisce a quanto pare molto bene sin dall'inizio e non li abbandona così nella tempesta finanziaria. Grazie per essere stati con noi, grazie Marco, grazie a Marco Loconte, grazie a Giancarlo Magri, UbiBanca per essere stati con noi. Salvadanaio torna lunedì, buon fine settimana a tutti.